Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nel 2004 è nato in Veneto il primo metadistretto dei beni culturali, riconosciuto ufficialmente dalla regione. Parliamo di una realtà che è nata per mettere a sistema tutte le competenze e le forze necessarie a valorizzare e proteggere l'immenso patrimonio culturale di cui gode la regione Veneto, ma di cui gode un po' in generale il nostro paese. Quindi che cosa mette insieme? Dalle imprese che producono tecnologie alle imprese che applicano queste tecnologie, magari facendo conservazione, fino agli enti pubblici e le università presenti sul territorio che coprono evidentemente tutto quanto attiene la ricerca e l'innovazione. Chi segue Mr. Kilowatt sa che abbiamo una grande attenzione per le iniziative volte, diciamo così, a individuare tecnologie e buone pratiche da applicare al recupero energetico proprio degli edifici storici e anche all'integrazione delle rinnovabili in questi contesti. Ebbene, il metadistretto Veneto dei beni culturali ed ambientali ha iniziato a lavorare su questo tema dal 2006. Ne parliamo con Sergio Calò, al quale chiederemo insomma di spiegarci un po' che cosa hanno combinato. Sergio Calò è responsabile tecnico del metadistretto. Buonasera Calò. Buonasera e buonasera anche ai radioascoltatori. Allora Calò, intanto è diciamo noto che qualunque operazione di efficientamento energetico parte da una valutazione delle prestazioni iniziali dell'edificio. Solo che su questo punto siamo molto deboli perché sappiamo pochissimo del comportamento di questi vecchi edifici, ma voi state cercando di metterci una pezza, se non sbaglio. Esatto, lei ha centrato il punto. Mentre sul nuovo è conosciuto quasi tutto rispetto alle caratteristiche e ai dati che vengono alle prestazioni che vengono fornite dai materiali nuovi, sull'antico invece è tutto da scoprire. Quanto ha conduttività termica la pietra di Vicenza o la pietra di Botticino e qual è il wafer compositivo che meglio risponde all'efficientamento. Ecco, quando dice wafer compositivo sta già saltando avanti, sta già andando sulle soluzioni. Restiamo un attimo sui materiali. Ecco, per esempio c'è qualche cosa di interessante che avete scoperto. Non so, io abito in Lombardia e da noi sono tipiche queste case con dei muri molto spessi in pietra nelle corti lombarde, ma immagino che ci sia qualcosa di simile anche lì. Come si comportano queste costruzioni, per esempio? Allora, si comportano molto bene. La capacità coibentativa studiata nell'antichità era proprio concentrata per salvaguardare al massimo quella che era il valore energetico che una casa poteva produrre. Sia perché non c'erano i riscaldamenti, quindi lì bisognava per forza pensarci subito. Anche a livello di orientamento, quindi l'orientamento nord-sud, la composizione materica degli edifici, logicamente gli edifici più ricchi avevano maggiore attenzione da questo punto di vista, gli edifici rurali un po' più poveri avevano meno attenzione. Parentesi, oggi nei software che si utilizzano per fare i calcoli sull'efficienza energetica, i muri in pietra vengono spesso parificati a zero proprio perché non si hanno questi dati che voi state, come dire, producendo. Senta, un altro filone di ricerca invece è rivolto a individuare appunto nuovi materiali e buone pratiche da applicare in contesti storici. Voi su cosa state lavorando? Allora, il progetto, faccio una piccolissima premessa, il progetto è in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, col metadistretto della bioedilizia che si occupa della parte proprio di valutazione energetica e con le università, oltre a una serie di aziende che partecipano direttamente per la sperimentazione e la proposizione di materiali e innovazione. È logico che identificare delle buone pratiche, dei protocolli serve in questo caso non solo, come lei ha detto, a colmare una parte anche normativa che in questo momento in Italia manca per la valutazione, ma serve soprattutto a chi lavora nel campo, siano essi progettisti, siano essi aziende, ad applicare le migliori soluzioni possibili nel rispetto del patrimonio storico-artistico, sia a livello estetico sia a livello logicamente materico. Ecco, ci fa qualche esempio, qualche materiale nuovo, qualche novità? Allora, abbiamo portato avanti un progetto sul un materiale compositivo di umidificante da poter applicare a mo' di cappotto su degli edifici storici, anche con la presenza di affreschi a contorno o di stuccature, con un valore importante per migliorare l'efficienza energetica di quegli edifici. Ricordiamo che la capottatura degli edifici esistenti in realtà è tutt'altro che semplice, che bisogna avere molte attenzioni perché altrimenti si verificano dei fenomeni noti come ponti termici, quindi trasmissione del freddo e del caldo, che creano muffe, tutta una serie di problemi. Questo sistema risolve sia il problema di coibentazione sia poi l'intervento nel rispetto della matericità originale dell'opera d'arte. e quindi dell'affresco o dello stucco o dell'intonaco antico posizionato internamente o esternamente negli edifici storici. Senta, poi voi avete addirittura una vernice nanotecnologica, sì, che serve a proteggere questi affreschi con una, come dire, rilevanza dal punto di vista energetico ridotta, ma insomma che per esempio si accoppia bene con questo cappotto. Questo per dare anche il senso della complessità di questi interventi. Esatto. Mi pare che un altro tema è quello dell'inserimento del fotovoltaico in questi contesti. Sì, sempre con l'aiuto della Direzione Regionale dei Beni Culturali, quindi del Ministero, stiamo valutando una serie di progetti e stiamo portando avanti delle ricerche per trovare delle soluzioni idonee all'applicazione dei pannelli fotovoltaici sia sugli edifici storici, sì, sia anche sul nostro paesaggio, perché anche il paesaggio logicamente ha un valore. È chiarissimo, saranno invisibili o magari si vedranno ma saranno belli da vedere? Allora, alcuni sono anche invisibili o almeno trasparenti, per essere sinceri, altri invece saranno belli a livello proprio di proposizione estetica e potranno essere applicati anche in larga scala sul paesaggio. Sul paesaggio, d'accordo. Senta, abbiamo pochi secondi, dobbiamo chiudere. Sta di fatto che voi state mettendo insieme, anzi forse avete già messo insieme, una sorta di guida di buone, sì, pratiche per intervenire. Dove i nostri ascoltatori possono trovarla? Potete trovarle l'indice e richiederci la guida al sito www.distrettobbcc.it e poi speriamo a breve anche nelle librerie. Grazie Calò. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Questo è davvero tutto, appuntamento per domani, buona serata.